Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete che c'è chi è partito dalla stalla del nonno e nel giro di 30 anni ha costruito una multinazionale tascabile, un termine che si usava una volta e che certe volte funziona ancora. Ecco, una multinazionale tascabile che produce macchinari meccanici ad altissimo valore aggiunto tecnologico, cose comprate da IKEA piuttosto che da Harley Davidson. È la storia della Cosberg, l'azienda meccanica di Gianluigi Viscardi, che in quel di Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, realizza sistemi di automazione, e essenzialmente si tratta di automazione dei sistemi di imballaggio, ma la Cosberg produce anche altro, ce lo spiegherà poi lui, ed è ritenuta da tutti un gioiellino meccanico come tanti che stanno al cuore della produzione meccanica di questo paese, dove la meccanica insieme alla chimica è ciò che tiene su l'economia. Senza quelle noi non ci saremmo, anche se certe volte ci rappresentiamo come un paese di cuochi. Ecco, la Cosberg è ritenuta una multinazionale tascabile, un'azienda ad alta tecnologia, un gioiello, ma lo è pur fatturando appena 12 milioni, cioè essendo relativamente piccola. Il problema delle economie di scala praticamente non c'è. Ne parliamo adesso con il suo fondatore e presidente Gianluigi Viscardi, buongiorno. Buongiorno. Che è anche presidente del cluster nazionale Fabbrica Intelligente e più avanti ci spiegherà di che cosa si tratta. Intanto ci dice esattamente che cosa fa la Cosberg? Ma la Cosberg è un'azienda, diciamo, ancora a conduzione familiare, dove noi facciamo, diciamo, automazione. L'automazione più delle volte viene vista come chi apre i cancelli o che tira giù le tende. Ecco, noi automazione vuol dire che proprio entriamo, il cliente ci chiede di risolvere un suo problema. Per esempio, cioè, deve montare, automatizzare il processo di montare un abiro, noi da quello sviluppiamo fino a fare le linee. Dall'abiro, montare l'orologio, montare i freni delle automobili. Quindi sistemi di automazione costruiti su misura. Perfetto, su misura. Ci dicono che siamo dei sarti, perché ne facciamo uno proprio su misura, dove è composto da tantissime tecnologie, perché dai sistemi di trasporto ai montaggi ci sono tutte le tecnologie, anche di visione. Usiamo robot proprio che delle volte che sono interfacciati anche con uomo-macchina. Più c'è tutto il discorso del software di gestione. Ma com'è che voi ne fate uno? Voi ne fate uno per il cliente, supponiamo IKEA o Harley Davidson, e poi col vostro prototipo il cliente cosa fa? No, lui, noi gli facciamo l'impianto nel senso che l'impianto deve montare facciamo una cerniera dei mobili, uh-huh. Okay, questa cerniera dei mobili che può arrivare a una produzione di 4.000 pezzi ora, viene messo questo impianto e facciamo uno, delle volte due di questi impianti, non di più. Perché poi il cliente, un altro cliente, ha un'altra esigenza. In più noi come Cosberg, proprio il nostro cliente, lo tuteliamo che per 2 o 3 anni, dipende dagli accordi che facciamo, non facciamo questo impianto ai loro concorrenti. Proprio per tenere questo. Quindi all'esclusiva? Sì, l'esclusiva per i 2 o 3 anni. C'è addirittura dei clienti che hanno sempre l'esclusiva, perché ogni 2 anni ci ordinano un altro impianto, automaticamente. Rinnovano l'esclusiva. Ecco, ma... E quindi praticamente siete un'azienda quasi di progettazione di ingegneria più che un'azienda meccanica in senso stretto. Beh, io mi ritengo un'azienda meccatronica. Ah. Ecco, questa meccatronica dove noi proprio progettiamo la macchina, facciamo costruire tutto nell'intorno lì a Bergamo, che abbiamo dei grandi subfornitori che ci fanno lavorazione meccanica. Poi noi li montiamo, cominciamo anche a fare, facciamo anche impianti elettrici, tutta la gestione, poi facciamo il collaudo presso di noi, dove arrivano i clienti, facciamo la formazione dei tecnici per il cliente e poi la macchina viene spedita, dove poi viene avviata. E avete clienti come IKEA o come Harley Davidson? Ecco, non sono direttamente con loro, perché sono altri fornitori che forniscono poi il prodotto a queste aziende. tutto il discorso anche del processo di non è legato solo al montaggio, perché poi bisogna tenere tutti i dati, la ritracciabilità, la tracciabilità dei prodotti. Ma non solo questo, lei immagini che noi esportiamo il 70% anche a 10.000 chilometri, essendo autoraggio, che noi abbiamo tutto un sistema di monitoraggio che noi dalla nostra azienda riusciamo a monitorare e vedere cosa sta succedendo anche per fare la manutenzione. Ecco, ma voi fate 12 milioni di euro di ricavi, giusto? Circa? No, diciamo che essendo un'azienda che lavoriamo su commessa va a periodi, per esempio nel 2014 ne abbiamo fatti anche 2013 8 milioni, 2014 18 milioni. Ecco, ma l'EBITDA in percentuale più o meno quant'è? Bene, l'EBITDA è molto alto. 30%? No, siamo intorno ai 25%. Che per il settore meccanico è tantissimo. Ma è tantissimo, il problema è che... È quasi un EBITDA da software. Più che EBITDA da software, io... l'altro valore molto importante, quanto investiamo in ricerca. Ecco, noi investiamo dal 14 al 15%. Ecco, ma voi fate 25% di EBITDA, cioè guadagnate un quarto di quanto voi vendete. Investite in ricerca al 12%, tutto questo avendo dimensioni contenutissime. Ecco, questo aspetto mi interessava molto, perché è come dire che il tema dell'economia di scala quasi non esiste. Diciamo che sono scelte aziendali che uno deve fare. Ma sono sostenibili anche con dimensioni così piccole? Come sì, si fa? Per forza deve essere sostenibile, perché bisogna imparare a vendere per valore. Quanto vale quello che noi facciamo? In funzione di questo, siccome noi facciamo questo prodotto e abbiamo tutte queste tecnologie, e noi per essere come si dice all'avanguardia, dobbiamo investire molto, ma non si può investire molto se non si guadagna. Questa è la cosa. Quindi molto il segreto sta nel fare prodotti ad alto valore aggiunto, venderli cari, così c'è sia il margine e sia la possibilità di investire quanto necessario per fare ancora più ricerca e sviluppo e quindi ancora più valore aggiunto in futuro. E se uno si garantisce un margine importante, l'economia di scala non conta, no? Ma io tornerei sul passaggio che lei ha detto, venderli cari, no, venderli del giusto valore, di quello che vale. Non venderli cari, bisogna sapere proprio dargli quanto valgono questi impianti, perché questi impianti devono servire a creare del valore aggiunto ai miei clienti e che devono ammortizzare questi impianti nei giorni di 2-3 anni, perché questo noi facciamo queste macchine molto evolute, però su questi prodotti che una volta duravano 20 anni. E questi impianti venivano ammortizzati in 20 anni, nel senso di dire che ora è sempre quello. Con la velocità di cambio velocissimo dei prodotti, anche le nostre macchine devono essere che si possono comprare e ammortizzare. Perciò non è che il discorso che noi dobbiamo vendere che ci sia il valore che faccia guadagnare me e faccia guadagnare specialmente il mio cliente. Perché il mio cliente è quello che proprio avendo giù questi impianti di automazione aiuta a stare sul mercato e avere più soldi per investire. Esattamente. E quindi lei non ha il problema di fare delle aggregazioni piuttosto che aprire il capitale al private equity o magari pensare di quotarsi in borsa? Assolutamente sì, anche questo noi stiamo cercando di aggregarsi, perché non è che dobbiamo proprio... Crescere perché il mercato sta sempre chiedendo più impianti complessi. Quindi lei è alla ricerca di un socio? No, o di un'azienda da unire alla sua? Ma oltre questo... dando una notizia. No, questo stiamo già lavorando, abbiamo lavorato anche per acquisire qualche azienda in partenariato, abbiamo analizzato in questi 2 anni 8 aziende proprio per entrare, per crescere insieme. E non è facile perché nel nostro modo di operare noi vogliamo entrare in aziende dove ci sia il know-how, non vogliamo scatole, vogliamo che ci sia il know-how. Quindi lei vorrebbe acquisire un'azienda e magari il precedente proprietario rimane socio? Ma quello non è un grosso problema di essere socio o non socio. Il mio problema grosso, che vedo specialmente nelle piccole e medie imprese, è questo, che quando si fa tutta questa tecnologia, io ho visto nella mia azienda, è abbastanza che vada via un tecnico, l'azienda è finita. Se io devo comprare un'azienda dove il know-how è di proprietà delle maestranze, che è giustissimo, non è proprietario dell'impresa, questo, a fare questa aggregazione potrebbe creare molti, molti problemi. Sulla storia della Kongsberg, ecco una breve scheda. Kongsberg è un'industria italiana leader in meccatronica, automazione, robotica, sistemi di visione, macchine speciali di assemblaggio e moduli per automazione. È stata fondata nel 1983 da Gianluigi Viscardi e dai suoi fratelli Ermanno e Antonio. In azienda lavorano numerosi esponenti della famiglia fondatrice. Ha sede nel comune di Terno d'Isola, a 12 km da Bergamo e a pochi passi da Sottolmonte, paese famoso per aver dato i natali a Papa Giovanni XXIII. La zona ha una tradizione secolare nella meccanica ed è caratterizzata da un'imprenditoria diffusa. Kongsberg, che in origine produceva pedalò, studia, progetta e costruisce macchine e moduli per l'automazione dei processi di montaggio in tutti i principali ambiti dell'industria, dal settore elettromeccanico a quello dei componenti per auto, passando per elettrodomestici, accessori per mobili, fino a settori di nicchia come l'elettronica e l'oreficeria. Fornitrice di aziende multinazionali, Kongsberg produce solamente su commessa e per questo il suo fatturato varia di anno in anno, oscillando tra i 12 e i 18 milioni di euro. L'EBITDA è sempre intorno al 30%, i dipendenti sono un centinaio, gran parte dei ricavi sono generati dalle esportazioni. Per Kongsberg, le caratteristiche fondamentali nello sviluppo di ogni singolo progetto sono l'analisi, lo studio e la progettazione, curate da un team dedicato. La forte interazione con la squadra di ricerca e sviluppo del cliente può così dare vita a un'ottimizzazione perfetta, dal progetto all'assemblaggio. Insomma, il principale valore aggiunto sta nel seguire l'intera filiera del processo, dalla progettazione alla costruzione fino alla manutenzione. È per questo che Kongsberg diventa, per i propri clienti, anche una piccola università della meccatronica, dove i tecnici e i disegnatori che lavoreranno sulle macchine vengono a seguire i lavori di assemblaggio e ricevono un corso di formazione per la manutenzione della linea di produzione. Rieccoci in linea dopo la scheda sulla Kongsberg. Stiamo parlando con Gianluigi Viscardi, che è anche presidente del cluster Fabbrica Intelligente, di cui vi parleremo dopo gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Gianluigi Viscardi, che è un imprenditore meccanico della meccanica ad alto valore aggiunto in Italia, cioè della Kongsberg, ma è anche il presidente del cluster Fabbrica Intelligente. Ci stava raccontando prima che cosa fa la sua azienda, che è considerata un gioiellino della meccanica e dell'automazione. Azienda che lui ha fatto nel giro degli ultimi 30 anni. Ma mi hanno detto, signor Viscardi, che lei ha fatto tutto a partire dalla stalla del nonno. No, è una cosa no, più che quello, diciamo che non vengono da una tradizione imprenditoriale. Siamo partiti da una tradizione contadina. Tradizione contadina, e poi abbiamo cominciato io e i miei fratelli, prima in veranda, poi in cantina e via via. Abbiamo cominciato a lavorare nell'automazione e adesso abbiamo un gruppo di 100 persone. E come mai, sempre rimanendo a Terno d'Isola, che è un posto dove, mi consenta, uno ci arriva se sbaglia strada? Beh, no. Con la macchina va da un'altra parte, sbaglia due bivi e arriva a Terno d'Isola. No, beh, a Terno d'Isola siamo nella zona dell'isola, che è la zona dell'isola della Bergamasca. Bergamasca è molto industrializzata, ma anche nell'isola ci sono parecchie aziende. Anche lì nella mia zona, anche se la prima volta che ero andato, ero il primo ad andare in quella zona. E lì, ripeto, siamo rimasti sempre lì, ma con un occhio visto nel mondo, perché noi lavoriamo anche molto con... Ho un piccolo centro di ricerca in Giappone, noi abbiamo comprato dei brevetti in Giappone, siamo molto... Ma come fate da Terno d'Isola a comprare i brevetti in Giappone? Cioè, è questo che, visto con occhi esterni, un po' sorprende, no? Ma perché parliamo molto di globalizzazione, ma questa è la prima cosa che bisogna fare. Noi come azienda ogni anno 4 delle mie persone devono girare il mondo per andare a fare scout ecologico. Ah, accidenti. Cosa sta succedendo nel mondo? Perché è inutile inventare l'acqua se c'è da un'altra parte, e va comperata indipendentemente che sia un'azienda grande o piccola. È importante brevettare, ma è, per me è più importante comperare la tecnologia che uno già messo, ha già sviluppato tutto. Ecco, la vostra è una fabbrica intelligente. Beh, io direi che di sì, nel senso che la fabbrica intelligente è una grossa parola. Se devo partire dalla fabbrica intelligente, perché come concetto, poi parliamo del cluster. Ecco, che sembra che tutte le altre siano stupide. Ma infatti volevo chiederle, se c'è una fabbrica intelligente ci sarà anche una fabbrica deficiente. No, Definiamo l'una e l'altra. Assolutamente no, perché il problema grosso, perché fabbrica intelligente, perché tutto è nato anche da questo discorso delle smart factory, industrie del futuro. E traducendo dei documenti a livello europeo, perché noi dobbiamo confrontarsi anche come paese a livello europeo, è quello che è uscito la fabbrica intelligente. La smart factory. Smart factory, ecco, però anche questo smart che viene usato da tutte le parti non è... Ma cos'è una fabbrica intelligente? Ma la fabbrica intelligente è, ritengo che, prima cosa, come ho accennato prima nel mio passaggio, è riuscire ad avere i dati nel momento che mi servono, che la fabbrica intelligente sia interconnessa, che sia connessa prima con tutte le loro diciamo maestranze. Anche questa è una cosa molto importantissima. Parliamo molto di cambi generazionali e le vediamo solo tra padre e figlio, invece qua cambi generazionali anche di tutta la maestranza, tutto, perché tutto il discorso di questa quarta rivoluzione che si sente parlare, quarta che, rivoluzione industriale, che appunto. Io per me, ripeto, dal mio punto di vista è un'evoluzione di tutto quello che sta succedendo, perché è quando sono arrivati i PLC, da quando è arrivata la meccatronica, ma creerà delle grandi rivoluzioni nelle nostre imprese che rischiano di essere buttate fuori. Ma più che, cioè, non è che rischiano, o lo fanno o lo devono fare o muoiono. O muoiono. E però... Ecco, ma vedete che in effetti c'è la fabbrica intelligente, che è quella interconnessa, digitalizzata, dove c'è una meccanica avanzata, ma soprattutto anche che sa dove vuole andare, perché se un'azienda non sa dove vuole andare, non ha chiara la mission, non ha chiaro dove è il valore, come si fa a guadagnare, può far guadagnare tanti soldi a Cisco, a SAP e agli altri, ma non va da nessuna parte. Quella è la fabbrica intelligente. Ma esiste in realtà la fabbrica deficiente, cioè la fabbrica che non è competitiva, che non si aggiorna, che vive di un rapporto magari abituale di fornitura, che magari ha rapporti preferenziali, che campa pagando poco i fornitori, pagando poco i dipendenti, che non paga le tasse, che ha i fondi neri. E io penso che anzi nella piccola impresa italiana ci sia un vasto tessuto di piccole imprese, e quindi di quelle che potremmo chiamare fabbriche deficienti. Ma io su questo da fabbriche deficienti non penso che esistano, perché io penso che anche l'imprenditore, anche più piccolo, ha un problema anche lui sociale, nel senso di dire che deve creare valore. E non è che questo qua noi è una cosa che la fabbrica intelligente si compra, bisogna farla. Bisogna costruirla. Non si fa dall'oggi al domani, perché adesso ci sono molti slogan, ma ci vorranno un minimo dei 5-10 anni. Ma è certo. Un percorso che tutti lo stanno facendo, proprio anche questo. Però stiamo parlando molto anche di fabbrica, ma dietro la fabbrica, come si sta facendo anche nel cluster, non si può cominciare a fare una fabbrica e parlare di anche, ma se volete, anche di politica industriale, se non si parte anche dalle scuole, dalla ricerca, dalla formazione continua. C'è tutto un percorso che dobbiamo fare. E anche questo, il discorso della fabbrica intelligente, non devono entrare queste tecnologie nuove solo perché sono di moda. Deve essere chiara la mission aziendale di cui le tecnologie sono al servizio. Perfetto, al servizio, devono essere al servizio, ma che creano valore. Se non creano valore, io l'ho portato anche un esempio quando ho avuto un incontro col bilaterale Germania-Italia, dove si parlava touchscreen, non touchscreen, benissimo tutto, forse delle volte è sufficiente anche il pulsante che mi crea valore, perciò è questo che proprio declinare dentro. Ecco, siccome il tempo stringe, il cluster fabbrica intelligente è un aggregatore di competenze accademiche industriali per il settore manifatturiero. C'ha 337 soci, di cui 32 associati, 37 enti di ricerca e ben 268 aziende. È forse la realtà autonoma, perché è una realtà autonoma, più importante per elaborare una politica industriale per il manifatturiero. E lei è presidente di questa cosa che è importantissima per il sistema italiano. Ho spiegato bene? Spiegato quasi bene. Ah, mi corregga lei. No, nel senso che i cluster sono voluti dalla MIUR, dal MIUR, dove appunto ha voluto che fosse intorno a questo tavolo ci fossero i centri di ricerca, ci fossero le istituzioni, ci fossero le imprese e anche le regioni, perché questo è un altro discorso importantissimo. Non si può cercare di fare delle politiche. Comunque, questo cluster a che cosa lavora? Beh, noi la missione del cluster di Fabbrica Intelligente è proporre, sviluppare, attuare una strategia basata sulla ricerca e innovazione in grado di indirizzare la trasformazione del settore manifatturiero italiano verso nuovi prodotti, servizi, processi e tecnologie in grado di sfruttare e sviluppare con successo il patrimonio unico di risorse offerte dal nostro paese. Quindi fate dei documenti che derivano da degli studi, poi li portate al MIUR e cercate di fare in modo che vengano attuati. Sì, al MIUR che è il MISE, però non è che... Il MIUR, lo dico per gli ascoltatori, è il Ministero dell'Università e della Ricerca, il MISE è il Ministero dello Sviluppo Economico. Benissimo. Ecco, però tutto questo non è che lo facciamo, cioè abbiamo dei professori, abbiamo 50 persone che lavorano. Lo fate a livello altissimo, questo lo so. Guardiamo anche i megatrend, cosa succederà, perché il manovio manifatturiero non si può parlare in manifatturiero se non andiamo a vedere tutto il discorso del cambiamento climatico, cosa demografica, mancanza di risorse. Tutto questo stiamo lavorando anche per il discorso anche importantissimo dell'economia circolare. Mi dica uno o due punti forti delle vostre proposte. Beh, ecco, il cuore delle nostre proposte è, siccome stiamo appunto parlando di questo manifatturiero Avast Manifactory, che dobbiamo preparare le nostre aziende a produrre un pezzo in meno di quello venduto. Ecco, questo mi piace, spieghi bene il concetto. Questo è, siccome la velocità di cambiamento dei prodotti, il discorso che cambiano tutti i modelli e tutto, non si deve più fare per lavorare per produrre i pezzi in modo che poi li venderò. Dobbiamo avere le fabbriche in modo che lavorino addirittura con l'8-1, portando anche ad avere, nel momento in cui mi servono dei grandi volumi, io li posso produrre. Questo è un concetto, non è facile da portare nell'azienda, perché un'azienda, se era legata a fare grandi numeri, non faceva il prodotto singolo. Mentre adesso, con tutto questo, è un tema che stiamo portando avanti, proprio di fare l'8-1, l'8 singolo personalizzato. Questo è un esempio che vogliamo portare avanti, insomma. Ecco, il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere. Ringraziamo il signor Viscardi e gli ascoltatori. Arrivederci, signor Viscardi. Grazie. A presto, domani, ore 13:15.